Alcune di queste proposte, insomma, vorrei ricordare, ecco, come ad esempio gli sgravi fiscali per chi reinveste gli utili, furono uno dei punti che noi toccammo proprio l'anno scorso a Santa Margherita, in una sorta di decalogo che noi ci permettemmo in qualche modo di presentare, insomma, all'opinione pubblica. E comunque certamente, diciamo, lo ricordiamo anche noi, lo ricorderemo domani nelle nostre tesi, di semplificazione, di snellimento dei vincoli burocratici, dei lacci e lacciuoli, ne parliamo anche noi giovani imprenditori da questo parco di Santa Margherita da moltissimi anni, quindi certamente lo salutiamo con favore, speriamo che sia la volta buona, ecco, non so come dire, certamente speriamo che ci possano essere, al di là, diciamo, delle modifiche costituzionali, anche dei sistemi per renderle, diciamo, immediatamente applicabili, magari con silenzio assenso, magari con autocertificazioni, cioè con sistemi che magari possono essere anche più rapidi rispetto a un iter costituzionale che sappiamo essere invece più lungo.